i nostri soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Che per la quarta giornata consecutiva non c'è ancora, ma noi siamo qua imperterriti a salutarlo, ad aspettarlo. Mauro, torna presto, perché qui manca la tua competenza fiscale soprattutto, e quindi oggi io mi devo riconcentrare sulle tematiche finanziarie e su tutte quelle questioni legate al risparmio degli italiani. Ma in realtà non lo faccio, perché così è un po' una strada che devo prendere per la mancanza di Mauro. Lo facciamo stamattina perché in realtà ci sono tante notizie che riguardano il risparmio delle famiglie italiane. Ieri a Roma è stato presentato il rapporto Consob sulle scelte finanziarie degli italiani, e ci sono tanti aspetti interessanti che emergono da questa nuova indagine che la Consob appunto effettua almeno una volta l'anno. Già da tempo Consob ribadisce che gli italiani hanno poca cultura finanziaria, questi sono anche peraltro i grandi titoli dei giornali di questa mattina. Questo rapporto 2017 lo ribadisce ancora una volta, però sono state un po' affinate le tecniche di questa rilevazione, e soprattutto a quanto pare ci si mette un po' di impegno in più per implementare le proprie conoscenze, però ancora per gli italiani c'è molta strada da fare. Soprattutto l'errore più diffuso che c'è è che gli italiani continuano a sopravvalutare le proprie competenze in materia di investimenti. Ne parleremo diffusamente proprio con l'autrice di questo rapporto. Più tardi ci collegheremo con Nadia Linciano di Consob, che ci racconterà i dettagli di questa rilevazione. Poi, siccome manca metodo nella modalità di risparmiare ed accantonare delle famiglie italiane, con un consulente finanziario vi daremo qualche suggerimento per poterlo fare al meglio. Se questa indagine che viene diffusa in queste ore, anzi è stata diffusa ieri e che viene evidenziata dai giornali stamattina, in qualche maniera rappresenta per voi una doccia fredda e vi dà modo di rendervi consapevoli degli errori che fate nella modalità in cui risparmiate per voi e per la vostra famiglia, con un consulente finanziario, come vi dicevo, più tardi faremo un punto sulla un piccolo check-up personale. Allora, 800 24 00 24, vi do modo naturalmente anche oggi, se volete, di intervenire in diretta. Anzi, facciamo così: raccontatemi proprio qual è l'errore che ritenete di aver compiuto in ambito finanziario nella gestione del risparmio vostro e della vostra famiglia, e di cui ancora magari adesso vi pentite. Quanto vi è costato, oppure qual è l'ambito in cui temete di più di sbagliare, quello che vi è più oscuro. Peraltro pensate che quando si parla di risparmio, la Consob rileva che gli italiani continuano ad andare in ansia finanziaria, quindi vi sentite un po' ostaggio anche di questo sentimento, di questa sensazione, e vi preoccupa il controllo delle spese della famiglia, l'indebitamento, la scelta degli investimenti giusti. Metteremo anche questo piccolo sondaggio su Twitter, quindi voi andate a completarlo e poi vedremo che cosa emerge dalle vostre abitudini. Se volete però tutto ciò lo potete anche commentare con noi direttamente all'800 24 00 24. Siamo live su Facebook, quindi io saluto sempre tutti gli amici che preferiscono seguirci sulle social network live. Peraltro, perché affrontiamo tutti questi argomenti oggi? Perché non ho ricordato la cosa più importante, che oggi è giovedì e c'è la nostra rubrica fissa di questa giornata. Investire informati. Eh sì, per investire bene, in maniera profittevole, per fare in modo che siamo sereni nelle scelte finanziarie che decidiamo di intraprendere, di sottoscrivere per il nostro benessere finanziario, ma anche per quello della nostra famiglia, bisogna avere un'adeguata conoscenza degli strumenti che si scelgono, bisogna avere un rapporto di fiducia con un consulente finanziario. Ma come sapete, voi con Investire Informati in questi ultimi 3 anni abbiamo fatto anche un altro percorso. Proviamo ad aprire i giornali di finanza, proviamo a decifrare anche quello che accade sui mercati finanziari. Cosa ci raccontano i mercati finanziari in questi giorni? Che Wall Street continua a correre, la borsa americana è pervasa da un'euforia che per qualcuno comincia ad essere un po' troppa, un po' troppo esagerata, per cui attenzione che una correzione dell'andamento di questo mercato potrebbe essere dietro l'angolo. Per qualcuno invece in realtà ci sono ancora spazi di crescita, e quindi le aziende americane sono sane, solide, sono un asset su cui continuare a puntare. Adesso vi racconto che cosa è successo ieri, ma vi presento anche l'ospite con cui parleremo di tutto questo: Alessandro Aspesi, Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investment. Buongiorno, benvenuto e grazie.